conosceva Milano. Non parlo fra bene manco l'italiano. E sono sopra un Lamborghini. Come passo tutti i giri, te la tiri ma mi attiri. Hanno brutte manie, mentalità italia, dalle popovalie, avec mon poto zeria. Gioco coco marie, salta con Marsiglia. Como estás? Te aspetto fuori dal club.